L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello che ama e rispetta l'ambiente, anche perché sa che quel che fa all'ambiente può un giorno rivoltarsi contro di lui, come è accaduto nelle ultime settimane purtroppo. Frane e alluvioni hanno tante cause, la maggior parte delle quali però fanno capo all'uomo e allo sfruttamento che fa del territorio e più in generale del pianeta. E guardate che nulla di nuovo c'è sotto il sole. Questa che vi facciamo ascoltare tra poco è una campagna televisiva di Pubblicità Progresso del 1977. Le immagini ovviamente non le vedrete, sono immagini di frane e di alluvioni di quegli anni, ma è l'audio la parte più importante, quella più significativa. 30 anni fa forse non c'era il dettaglio scientifico, ma l'andamento e i problemi erano già ben noti. Le scene che vedrete sono state riprese dal vero in Italia. Se andiamo avanti così, tutta l'Italia sarà alluvionata. E non è una previsione avventata se si pensa che negli ultimi anni circa la metà dei comuni italiani ha subito frane, smottamenti, alluvioni. Questo è quanto siamo riusciti a fare per l'acqua. Abbiamo trasformato una fonte di vita in un nemico che passa, distrugge, uccide. Dai monti senza più alberi l'acqua scende a valle travolgendo tutto. Manca un piano delle acque, manca la coscienza del problema e la volontà di risolverlo. C'è un po' tutto e c'è anche tutto quello che non abbiamo fatto negli anni in questa pubblicità. Mettiamoci davanti un noi, perché un po' di responsabilità ce l'abbiamo tutti. Se i cittadini imparassero a rispettare e a far rispettare l'acqua. L'acqua è un bene di tutti. Facciamo tutti qualcosa per difenderla. Subito. Chiudiamo questa finestra sul passato. Restiamo però in tema di costruire un pianeta intelligente. Nei giorni scorsi si è svolta a Bergamo la settimana dell'energia, una serie di appuntamenti che sono stati dedicati al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili, alla sostenibilità ambientale e perché no anche alle possibilità delle imprese in questi ambiti. In quel contesto l'Ordine degli Architetti di Bergamo aveva deciso di invitare a dibattito tre noti architetti catalani: Enric Massip dello studio Massip Bosch, Joan Sabaté dello studio Saas e Felipe Pic Aguilera Baurier dello studio PIC con Teresa Batlle Pagès. Perché proprio loro? Perché come chi ha visitato Barcellona e la Catalogna negli ultimi 15-20 anni, quella è, ora però forse dovremmo dire è stata, una delle aree europee che ha vissuto un sorprendente rinnovamento urbano che ha incluso tutto, dalla circolazione stradale alla demolizione e ricostruzione di quartieri ed aree industriali. Enric Massip, Felipe Pic e Joan Sabaté sono tre esponenti di spicco dell'architettura catalana, ma ciascuno con la sua declinazione. Intanto sul conflitto tra pragmatismo e ideologia, come l'ha definito Massip, che negli ultimi anni è balzato agli onori per la torre telefonica Diagonal, un grattacielo a forma di rombo e con l'aria di un diamante, sede dallo scorso gennaio dell'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica, a Barcellona ovviamente. Noi facciamo la nostra architettura, la pensiamo di un modo sostenibile, la pensiamo di un modo in questo, diciamo, in questa strada per lavorare per un risparmio energetico, eccetera. Ma siamo più pragmatici che ideologi. Siamo per dirlo così, assaggiando a questo punto diversi modi e non abbiamo trovato ancora quello che noi vogliamo fare come una meta vitale ancora. Quindi dice Massip, sperimentiamo tutto con attenzione alla sostenibilità, ma senza anteporre un credo ambientalista al lavoro. Opposta è la visione di Joan Sabaté, un maniaco, in senso buono, del dettaglio, dei materiali, della ricerca puntuale, dei costi, dei benefici, di ciascun metodo di costruzione. Essere radicali, dice lui, ideologici, è il vero pragmatismo. La cosa pragmatica in questo momento è essere radicale per ridurre l'impatto della nuova vita, della nostra vita nell'ambiente. E perché hanno dei cambi importanti. Non è una questione dell'ideologia, è una questione del nostro impatto, dell'impatto del nostro sistema economico e tecnologico e nell'ambiente, nella realtà, il nostro intorno. È evidente che per trasformare il sistema tecnologico è necessario cambiare molto, molto, molto sicurezza che noi abbiamo in questo momento. Nessun dubbio, e piena antitesi con Masip, nemmeno sulla posizione di Felipe Pic, che ha esordito in conferenza con queste parole. Io credo che parlare stanotte soprattutto, intendo io, di architettura contemporanea. Vorrei dire prima di tutto che questa sera parlerò di architettura contemporanea e con questo intendo dire che l'attenzione per l'ambiente nella nostra architettura non è un aggettivo ma una preoccupazione, una necessità che tutti abbiamo ancora prima come cittadini che come architetti. E a proposito della conferenza, l'audio dell'intera serata lo potrete ascoltare tramite il nostro sito internet nella pagina dell'Altro Pianeta da lunedì della prossima settimana. Non vedrete ovviamente le presentazioni, ma sentirete tra l'altro l'elogio al termitaio australiano di Felipe Pic. Una costruzione straordinaria, dice lui, capace di mantenere la temperatura interna costante qualunque sia il clima esterno. Un edificio in sostanza che un architetto dovrebbe copiare per risparmiare e per rispettare il pianeta. In questa puntata dell'Altro Pianeta raccogliamo alcuni spunti di quella serata e li portiamo avanti insieme. Ad esempio quello del pragmatismo di cui si diceva e quello dell'architettura contemporanea che ricordava Pic. Se davvero tra 10 anni non dovremo più discutere di sostenibilità in architettura perché sarà implicito nella progettazione di qualsiasi costruzione, allora ci vuole formazione. 10-15 anni fa in Catalogna si riversarono centinaia di studenti stranieri ansiosi di studiare da vicino il modello di rigenerazione urbana catalano. Ma oggi, come sono le facoltà di architettura in Catalogna e nel resto del mondo? Joan Sabaté non è affatto convinto che le attuali università sappiano formare adeguatamente i futuri architetti. Io credo che in questo momento le architetti come gruppo sociale, intellettuale e anche l'università non è nella posizione di fare andare in avanti la sostenibilità. Anche se questa accademia non è un'accademia classicista, sino è un'accademia di forma, qui le forme sono le forme delle avanguardie architettoniche degli anni 20. Ma la realtà è che all'interno non ha una soluzione, non ha un interesse per il problema reale della società. Sono la sostenibilità, ma anche le cambi sociali, la trasformazione dello spazio vitale, il problema di cambio culturali per gli stranieri che vengono, no? Il movimento sociale. Queste cose non sono una preoccupazione dell'architettura. L'architettura resta nella forma e credo che questa è una forma molto ridotta dell'interesse dell'architettura, no? Molto, non è interessante. E la università non ha preso in questo momento la forza di andare avanti. Io credo che vale per tutto il mondo, non tutto il mondo, non tutte le università, ha università che ha cambiato la forma di lavorare, ma molte università, ma molte paesi, sono in questo momento in questa posizione. Tradizionali. E assai poco convinto, almeno di quello che accade nel bacino del Mediterraneo, è anche Felipe Pic. Probabilmente la università anglosassona sta. Probabilmente l'università anglosassone è un passo avanti di quella tradizionale mediterranea, perché quella mediterranea è l'accademia garante della tradizione. Quella anglosassone, invece, ha sviluppato più legami con la realtà e l'industria. E oggi la ricerca e l'innovazione si stanno compiendo nei paesi del nord. Su un'altra onda, invece, rispetto ai colleghi, ancora una volta, Enric Masip, che però lo dichiara subito, è direttamente coinvolto nell'insegnamento. Io sono fortunato di insegnare nel Politecnico di Catalogna, nella scuola del Vallès, che è molto nota per tutte queste questioni di sostenibilità, di risparmio energetico, medioambientale, eccetera. Sono questioni trasversali a tutti i corsi, trasversale tutte le materie e penso che gli studenti hanno una conoscenza molto più acuta, molto più accurata di questi temi che altri studenti. C'è ancora molta strada a fare in questo senso, ma siamo già lavorando nella scuola di Pagliesi in una direzione molto chiara di parlare di architettura incorporando tutti questi temi di un modo normale già del primo anno degli studenti. E della loro città, che così tanto è stata all'avanguardia, ma che vive ora momenti di crisi pesanti, come ben sappiamo. Che cosa dicono? Per una volta i tre vanno d'accordo. Sentiamo Pic. Questo è un momento di riflessione in Europa e nel Sud Europa, ma dopo questo momento di riflessione credo nascerà una nuova realtà, una nuova architettura con al centro la sostenibilità. Joan Sabaté è ancora più ottimista. La trasformazione è in corso, dice, abbiamo esaurito un ciclo e ne stiamo già aprendo un altro. E in questo momento Barcellona si trova esattamente in un processo di trasformazione, di ricreazione, e probabilmente la prossima decada potrebbe essere una decada di rinnovamento di idea. E questo credo che è interessante. La società civile comincia a ripensare, a revisionare le cose. C'è tanto da fare, dice Henrik Masip. Ci sono tante cose a fare. Questo è il messaggio più importante per i nostri politici, perché c'è anche quell'argomento di dire no, ma abbiamo fatto tante cose, siamo già in un punto buono, eccetera. Non è vero. Ci sono tante cose a fare. Per cominciare, ci sono tanti edifici a demolire, a ricostruire con nuovi criteri di sostenibilità, eccetera. La Spagna vive una crisi profonda da quasi 3 anni, eppure questi tre sprizzano più entusiasmo di tutti gli italiani presenti. Abbiamo molto da fare anche qui, evidentemente. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, riprendiamo come sempre con l'intervista di Cristina Carpinelli. Parliamo di educazione alla sostenibilità questa settimana attraverso l'attività di uno dei musei più presenti in questo settore in Italia, ovvero quello della scienza di Trento. Abbiamo deciso di dare spazio ai ragazzi, ai bambini e di entrare uno in uno dei musei italiani che forse di più si sta prodigando per collegare i due temi, quindi l'infanzia e la giovinezza al tema dell'ambiente. Due temi sicuramente che avranno e devono avere un percorso comune e non parallelo. E allora ospitiamo Massimiliano Tardio, che è uno dei mediatori culturali del Museo di Trento, al quale chiediamo innanzitutto qual è il progetto, se c'è un progetto all'interno del museo per collegare appunto l'ambiente ai giovani. Sì, il Museo di Scienze lavora da anni appunto nel settore dell'ambiente, più in generale delle scienze naturali, e si rivolge in particolare al mondo della scuola e al mondo dei giovani, dei bambini, dei ragazzini, e con attività che sono rivolte alle scuole ma anche ad un pubblico appunto non adulto di ragazzi giovani, con attività che si realizzano sia in sede qui nel nostro museo. Sono dei laboratori dove la nostra attitudine è quella di sperimentare, cioè mettere il bambino in diretto contatto con la natura, cercando di fare insieme a lui delle scoperte che possono essere sorprendenti a volte, e quindi apprendere delle nozioni che si legano all'ambiente, alla natura, in maniera del tutto innovativa, cioè in maniera del tutto sperimentale. Ecco, ci può fare degli esempi pratici, nel senso, cosa vi è successo in questi anni di sorprendente relazionandovi ai bambini? Ma con i bambini appunto abbiamo visto che le strumentazioni scientifiche, io ad esempio lavoro tanto con la microscopia, e la microscopia ottica è un mondo che ancora affascina i bambini, che possono quindi in questo caso apprendere le nozioni che riguardano il mondo dell'invisibile, cioè del mondo del microscopico, di quello del non visibile all'occhio nudo, in maniera appunto sperimentale. Noi con le nostre attività, ad esempio, andiamo proprio a raccogliere questi microrganismi utilizzando delle imbarcazioni. In questo caso questa è un'attività in ambiente, cioè proprio all'esterno, presso un lago, dove i bambini vanno attivamente a raccogliere con dei rettini il plankton, dei microrganismi acquatici, che poi possono osservare al microscopio, e da questo poi si parte tutto un ragionamento che riguarda anche il mondo della ricerca. Per quanto riguarda le iniziative che il Museo di Trento ha in serbo, ce n'è una in particolare che a noi dell'altro pianeta interessava raccontare, perché ha a che fare proprio direttamente con l'ambiente. Sì, è un'iniziativa che si realizzerà proprio questo sabato. Questa è la settimana dedicata all'acqua dall'UNESCO, cioè l'iniziativa si chiama A come acqua. È un'iniziativa che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilizzo dell'acqua, e questa iniziativa in particolare che realizziamo qui in museo è stata promossa dal Comune di Trento, il quale ci chiede di parlare di acqua in maniera scientifica, perché noi siamo appunto ricercatori scienziati, e quindi daremo la possibilità di assaggiare ai nostri visitatori le acque del nostro Comune di Trento, che in realtà è strutturato con pozzi e sorgenti diverse, quindi si potrà anche apprendere e confrontare acque di varie zone della nostra città, e confrontarle anche con le acque che comunemente compriamo al supermercato, o anche altre acque che caratterizzano la nostra provincia. E quindi sarà un assaggio, quindi anche questa è una nostra modalità, quella comunque di sperimentare, ma anche utilizzando i sensi, il gusto, l'olfatto e la vista, perché potremo quindi apprendere le proprietà organolettiche, cioè il sapore, il colore, e perché no magari capire che l'acqua del nostro comune è anche quasi più buona rispetto a quella che si può comprare al supermercato. Ecco, appunto, ci saranno comunque dei percorsi di sensibilizzazione rispetto alla sostenibilità ambientale, quindi sicuramente... Certo, noi arriviamo sempre a un ragionamento di questo tipo, nel senso non vogliamo come museo naturalmente prendere una posizione politica su questi argomenti, però noi spesso ci confrontiamo con la scienza, la quale ci dà a lei delle risposte, no? Utili a farci capire quali sono poi le buone pratiche per cercare di rendere sostenibile la vita nostra su questo pianeta. Non è che questo è un ragionamento quindi politico per noi, è un ragionamento oggettivo, cioè se vogliamo sopravvivere e poi dare possibilità, dare anche la possibilità di vivere alle future generazioni, è necessario assolutamente cambiare un comportamento e quindi cercare di interagire in maniera ottimale con la natura, cercando di non stressarla, tra virgolette, troppo, ecco. Lei quando lavora con i bambini come si sente? Nel senso, avendo a che fare proprio con loro direttamente, può raccontarci come saranno questi bambini crescendo? Cioè, c'è consapevolezza in loro? Assolutamente sì, i bambini sono il mio target preferito, appunto io lavoro con bambini che vanno dalle scuole elementari fino alle scuole superiori. I bambini sono quelli che maggiormente ancora si sorprendono delle piccole cose, e questo forse è un suggerimento che dovrebbero dare agli adulti, no? Molto spesso gli adulti non si accontentano, mentre è nelle piccole cose che si fanno le scoperte più sorprendenti. Grazie a Cristina Carpinelli anche questa settimana per il suo contributo. Adesso è il momento di Articolo 9, invece, la nostra rubrica per segnalare un bene italiano da salvare. Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. Marco Carminati. Oggi siamo in uno dei posti più belli d'Italia, io ne sono particolarmente affezionato, la Riviera di Stresa, cioè siamo nel Lago Maggiore, la sponda ricca del Lago Maggiore, la sponda piemontese. La cittadina di Stresa è dall'inizio del secolo uno dei luoghi più incantevoli per il turismo internazionale, e ha davanti le meravigliose isole del Golfo Borromeo. Abbiamo con noi in collegamento il dottor Piero Vallenzasca, che è consigliere comunale della lista Insieme del comune di Stresa. Buongiorno dottor Vallenzasca. Buongiorno. Ecco, lei come consigliere comunale questa meraviglia la vive tutti i giorni, perché vive appunto in questa città. Ecco, ci descriva un po' dove siamo, perché è così bella Stresa? Stresa è bella perché è stata così trasformata storicamente ed è diventata cosiddetta perla del Lago Maggiore, quindi il suo lungolago, che è una natura trasformata nell'Ottocento e sino ai primi del Novecento, è risultato di questa opera dell'uomo che ha lasciato un'impronta di pregio e che oggi viene ammirata come una qualità elevata dal punto di vista paesaggistico e architettonico, per certi valori di edilizia anche alberghiera che esistono, e che quindi è meritevole di tutela in quanto rappresenta un valore anche dal punto di vista dell'offerta turistica. Certo, il Regina Palace, il Borromè, questi meravigliosi alberghi che sembrano venuti fuori da fiabe, tanto sono imponenti e anche molto belli da vedere, tra l'altro circondati da giardini curatissimi. Ecco, però se lei si è rivolto a noi è perché c'è qualcosa che non funziona in questo incantevole lungolago. Che problemi stanno sorgendo? I problemi sono legati ad un progetto di variante urbanistica che l'attuale amministrazione ha in animo di avviare e di portare a compimento, e che prevede la possibilità di edificare sino a circa 150.000 metri cubi di nuovi alberghi o ampliamenti degli alberghi esistenti, tutti sulla fronte lago, con quindi esiti a nostro avviso infausti sotto il profilo del mutamento dell'immagine che storicamente ormai si è consolidata di questo tratto di lago. Certo. Questo è il grave rischio dal punto di vista ambientale, paesaggistico e quindi anche turistico. Certo, chi ha visto i rendering di questi progetti in effetti si rende conto dell'impatto incredibile, anche perché lì il verde in molti punti raggiunge ancora il lago, dalla collina gli alberi arrivano fino al lago, e questa parte verrebbe tutta coperta da una palazzata praticamente unica. Ma senta, io le devo dire, gli alberghi in una località del genere sono una delle fonti più importanti dell'economia, perché questa città vive di un turismo tra l'altro internazionale. Sul lungolago di Stresa si sentono parlare tutte le lingue, al contrario di altre località del Piemonte e della Lombardia. Che alternativa avete voi a questo discorso, che nasconde naturalmente, immagino, un anelito di sviluppo economico? Che cosa si può fare secondo voi? Tanto c'è un limite a tutto, noi non siamo in grado di probabilmente accogliere un'espansione infinita, c'è un limite all'espansione. Certo. Abbiamo una capacità ricettiva di oltre 3.000 posti letto nelle strutture alberghiere esistenti, con la variante proposta si salirebbe di ulteriori 1.100 posti letto. Sì. L'alternativa è quella che bisogna contenere le masse edilizie previste, sono eccessive, la loro gestione dal punto di vista poi del progettuale e urbanistico diventa impossibile. Certo. Quindi sì ad alcuni ampliamenti, se ben inseriti, no ad alcuni maxi nuovi grandi alberghi che poi non saranno più grandi alberghi, ma saranno solo grossi alberghi, e questo è il salto di perdita di qualità che il turismo di Stresa rischia con questa variante. Si passa dal grande albergo al grosso albergo. Perfetto, senta, la ringrazio molto di questo. E bisogna ricostruire il sistema dei parchi storici, che invece il progetto urbanistico minaccia seriamente. Certo, perché quindi gli insediamenti di questi nuovi alberghi vanno ad occupare quelle aree che una volta erano occupate invece dai parchi delle ville storiche, che una delle caratteristiche essenziali e caratterizzanti la sponda piemontese del Lago Maggiore. Benissimo, consigliere Valenziasca, io la ringrazio molto, abbiamo capito molto bene qual è la vostra ricetta, sì all'espansione naturalmente edilizia, ma con grande criterio, rispettando le cubature e soprattutto rispettando il verde che circonda ancora questi palazzi. Io spero che questa perla del Lago Maggiore, seguendo anche le vostre indicazioni, continui a rimanere tali per tanti e tanti anni. Grazie mille della collaborazione. Grazie a voi. E un cordiale saluto a tutti voi, grazie. E siamo giunti al termine di questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordo che per riascoltarci c'è il sito internet di Radio 24. Per scriverci invece l'altropianeta@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.